ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. Traduzione di Ada Maria Terziani. La canzone dell'imperatore. Nel bosco, sopra Löby, restava ancora un tratto della vecchia strada maestra, quella che un tempo tutti avevano dovuto percorrere, ma che adesso era evitata perché non faceva altro che attorcigliarsi su e giù per tutti i possibili cocuzzoli e tutte le colline, e non aveva mai il buon senso di aggirarli. Il tratto esistente tuttora era così scosceso che non veniva più utilizzato dalle vetture, ma i viandanti qualche volta vi si inerpicavano perché era una buona scorciatoia. Correva ancora larga, come una vera strada statale, coperta di bella ghiaia gialla, anzi addirittura più bella di prima perché non presentava tracce di ruote, né di fango, né polvere. Lungo i margini continuavano a fiorire i soliti fiori delle strade maestre, ranuncoli d'ogni specie, e cerfoglio selvatico si assiepavano in schiere fitte, ma i fossati si erano riempiti di germogli e un'intera fila di abeti vi aveva affondato le radici. Non erano gli abeti che più crescevano, tutti della stessa altezza, con rami dalle radici alla cima. Stavano fittamente serrati gli uni agli altri, come nelle siepi delle tenute, e non ce n'era neanche uno secco o avvizzito. Erano tutti chiari in cima, per i giovani germogli, e tutti cantavano e ronzavano come calabroni nelle belle giornate estive, quando il sole riversava su di loro la sua luce da un cielo limpido. Tornando dalla chiesa, quella domenica in cui per la prima volta si era mostrato nel suo abbigliamento imperiale, Jan di Skrolica andò a finire proprio sulla vecchia strada maestra. Era una calda giornata di sole, e mentre si arrampicava su per il pendio, gli giunse così forte la musica degli abeti da restarne stupito. Gli sembrò di non averli mai sentiti cantare in quel modo, e gli venne l'idea che doveva assolutamente scoprire perché mai fossero così chiassosi proprio in quel giorno, e poiché non aveva la minima fretta, si mise a sedere in mezzo a loro sulla bella strada di ghiaia, posò il bastone accanto a sé, si tolse il berretto per asciugarsi il sudore dalla fronte e poi rimase fermo con le mani giunte ad ascoltare. C'era una quiete assoluta nell'aria, e non poteva essere il vento a far vibrare tutti quei minuscoli strumenti. No, si era piuttosto portati a credere che gli abeti si fossero messi a suonare per comprare la loro gioia di essere così giovani e sani, di trovarsi lì così in pace lungo la strada abbandonata e di avere tanti anni davanti prima che a qualcuno venisse in mente di abbatterli. Se era davvero così, non si capiva però perché proprio quel giorno gli abeti suonassero con così tanto slancio. Di tutti quei doni preziosi potevano anche gioire in ogni bella giornata d'estate, mica avevano bisogno di organizzare per questo un concerto speciale. Jan sedeva silenzioso in mezzo alla strada maestra, in ascolto. Era bello ascoltare lo stormire degli abeti, anche se era sempre sulla stessa nota, e non faceva pause che permettessero di distinguervi un ritmo o una melodia. Sì, era dolce e bello stare lì sul pendio del bosco. Tanto bello da non meravigliarsi affatto che gli alberi si sentissero lieti e felici. Strano piuttosto era che gli abeti non sapessero suonare meglio di quanto facevano. Guardò i loro ramoscelli dove ogni ago era sottile e verde, e ben conformato e messo al posto giusto. Aspirò l'odore di resina che emanavano. Non vi è erba nei prati, né fiore nei campi che abbia un così buon profumo. Osservò le loro pigne ancora verdi, le cui scaglie sono disposte con tanta arte per vegliare sui semi. Ma il motivo era solo uno, e sempre quello. E forse non era neanche una cattiva idea sdraiarsi sulla bella strada di ghiaia pulita e concedersi una piccola siesta. Ma aspetta, che succede? Appena appoggiato il capo a terra e chiuse le palpebre, gli parve che il mormorio cambiasse. C'era un ritmo ora, e c'era anche la melodia. Quello di prima non era che un preludio, come si fa di solito in chiesa prima di incominciare il salmo. Ora gli giungevano anche le parole, e parole che poteva comprendere. Sì, era esattamente quel che aveva intuito da subito, senza volerlo ammettere neppure nei suoi pensieri, ma gli alberi sapevano tutto quello che era successo, anche loro. Era proprio in suo onore che avevano suonato così forte quando era arrivato. Ora era di lui che cantavano, non vi erano dubbi, credendo che dormisse. Non volevano forse che sentisse come lo festeggiavano? Che canzone, che melodia! L'imperatore stava sdraiato con gli occhi chiusi, ma proprio per questo sentiva ancora meglio. Non una nota gli sfuggiva. Cantati i primi versi, vi fu un intermezzo senza parole. E questa era la cosa più stupenda. Questa era musica. E non solo i giovani alberelli lungo la vecchia strada suonavano, ma tutto il bosco con loro. Erano organi e tamburi e trombe. Erano flauti dei merli e zufoli dei fringuelli. Erano mormorio di ruscelli e ninfee, tintinnare anche da campanale e un tavoreggiare di picchi. Mai Jan aveva udito qualcosa di così meraviglioso, e mai aveva ascoltato una musica in un modo così intenso. Gli penetrava così in fondo nelle orecchie che mai l'avrebbe potuta dimenticare. Quando il canto finì, e il bosco tornò silenzioso, si alzò come da un sogno, e subito si mise a ripetere quella canzone imperiale del bosco, per non dimenticarla. L'imperiale genitore è così lieto nel cuore. E qui veniva il ritornello, che non era riuscita ad afferrare con precisione, tuttavia lo cantò pressappoco come gli era sembrato che suonasse. Come detto sul giornale, Austria, Portogallo, Metz e Giappone è quel che è. Boom, boom, boom, su, rulla, boom, boom, boom. Corona d'oro il suo berretto, sciabola d'oro il suo moschetto, come detto sul giornale, Austria, Portogallo, Metz e Giappone è quel che è. Boom, boom, boom, su, rulla, boom, boom, boom. Ora galleggiano le mele d'oro, come le rape nel suo paiolo, come detto sul giornale, Austria, Portogallo, Metz e Giappone e quel che è, boom, boom, boom, su, rulla, boom, boom, boom, quando esce fuori dalla casetta le damigelle si inchinano in fretta, come detto sul giornale, Austria, Portogallo, Metz e Giappone e quel che è, boom, boom, boom, su, rulla, boom, boom, boom. Quando nel bosco muove i suoi passi se ne rallegran le foglie e i sassi, come detto sul giornale, Austria, Portogallo, Metz e Giappone e quel che è, boom, boom, boom, su, rulla, boom, boom, boom. Proprio quel boom, boom, boom era il pezzo più bello. Jan batté con forza al suolo il bastone ad ogni boom, sforzandosi di rendere la voce più forte e profonda che poteva. Cantò e ricantò e ne echeggiò il bosco. Era talmente prodigiosa quella canzone, non si stancava mai di ricominciare a cantarla infinite volte. Boom, boom, boom! Ma era anche stata composta in una maniera straordinaria. E non poteva che essere un'ulteriore prova della sua eccezionalità il fatto che per la prima volta in tutta la sua vita fosse riuscita a orecchiare una melodia. Il 17 agosto. La prima volta che Jan di Skrolica si era recato a Lovdala per il 17 agosto non era andata a finire in modo così onorevole per lui come avrebbe desiderato. Quindi non era tornato, benché avesse sentito dire in giro che ogni anno a Lovdala la festa era diventata ancora più divertente e più grandiosa. Ma ora, da che la ragazzina era salita tanto in alto, tutto era cambiato per lui. Ora riteneva che sarebbe stata anche una grande delusione per il tenente Liljekrona se un così alto personaggio come l'imperatore Johannes di Portugaglia non avesse voluto fargli l'onore di portargli i suoi auguri di felicità in occasione del suo compleanno. Indossò dunque l'abbigliamento imperiale e si mise in cammino. Ma si guardò bene dall'arrivare fra i primi ospiti. A lui, che era imperatore, si addiceva meglio presentarsi soltanto dopo che i numerosi convitati avessero avuto il tempo di sentirsi a proprio agio e il divertimento fosse già cominciato. Alla visita precedente, Jan non si era azzardato più in là del giardino e del vialetto di sabbia davanti alla villa, senza osare avvicinarsi a salutare. Ma adesso non era neanche pensabile che potesse comportarsi in modo così scortese. Ora puntò dritto al grande pergolato a sinistra della loggia d'accesso, dove sedeva il tenente circondato da una quantità di signori venuti da Svarzio e da altre parti. Gli prese la mano e gli augurò tanti anni felici. «Così, Jan, hai fatto una passeggiata?» disse il tenente Liljekrona con un tono alquanto sorpreso. Certo non si era aspettato un tale onore, ed era probabilmente per questo che non si era ricordato e l'aveva interpellato con il vecchio nome. Ma un uomo così alla mano come il tenente non lo faceva sicuramente per cattiva intenzione. Jan lo sapeva, perciò lo corresse con molto tatto. «Certo non vogliamo darvi troppo peso, signor tenente, dato che oggi è il vostro compleanno», disse. «Ma per correttezza è imperatore Johannes di Portugallia che mi chiamo». Aveva pronunciato queste parole con la voce più dolce possibile. Non di meno gli altri signori si misero a ridere del tenente che si era comportato in maniera così sciocca, e quella contrarietà Jan proprio non gliel'avrebbe voluta cagionare il giorno della sua festa. Si affrettò dunque a rivolgersi agli altri per sviare l'attenzione. «Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, miei buoni generali e vescovi e prefetti», disse, sollevando il berretto con largo gesto imperiale. Poi era sua intenzione fare il giro del gruppo per stringere la mano a tutti, come è giusto fare quando si va a un ricevimento. Vicino al luogotenente sedeva un individuo piccolo e tozzo, con un panciotto bianco, dell'oro sul colletto e la spada al fianco. Quando Jan andò a salutarlo, l'uomo, invece di porgergli tutta la mano, offrì soltanto due dita. Forse con ciò non intendeva nulla di male, ma ecco, una persona come l'imperatore Johannes sapeva bene che si ha l'obbligo di difendere la propria dignità. «Devi proprio darmi tutta la mano, mio buon vescovo e prefetto», disse l'imperatore. Ma lo disse con molta gentilezza perché non voleva turbare la gioia di quella grande giornata. E allora, chi lo crederebbe? L'uomo arricciò il naso. «Ho udito poco fa che non ti andava genio che Lilia Crona ti chiamasse per nome», disse. «Ma ora mi domando come tu possa permetterti di darmi del tu. Non vedi queste?» chiese, indicando tre misere stelline che portava sul frac. Davanti a simili parole, era tempo di deporre l'umiltà. «Presto, aprire il panciotto, coperto di grandi, superbe decorazioni d'oro e d'argento». Altrimenti Jan teneva la giacca abbottonata, perché le decorazioni erano delicate e facilmente potevano sbiadire e ammaccarsi. E poi la gente rimane sempre così stranamente confusa davanti ai grandi personaggi, e l'imperatore non voleva intimidirla mostrando tutto il suo splendore quando non era necessario. Ma questa volta doveva proprio farlo. «Guarda qui tu», disse. «To, to, to. Così capita chi vuole darsi delle arie. Tre misere stelle, cosa vuoi che siano?» Bisogna credere che a questo punto nascesse in quel signore un senso di rispetto. Vi contribuì certamente anche il fatto che tutti quelli che sapevano come stavano le cose riguardo all'imperatrice e al suo impero si misero a ridere di lui a più non posso. «Perbacco!» esclamò alzandosi in piedi e inchinandosi. «È proprio una vera maestà che ho di fronte, e sa anche rispondere per le rime!» «Già, è così quando uno sa come deve comportarsi con la gente. E di tutti quei signori nessuno fu poi più contento di poter conversare con questo buon rapo di tutti. Proprio di quello lì che all'inizio era stato tanto spocchioso da non volergli porgere più di due dita quando lui, che era imperatore, gli aveva dato tutta la mano. Che nessuno di coloro che sedevano sotto al pergolato si rifiutasse più di rendere all'imperatore il dovuto saluto, è forse superfluo aggiungerlo. Superati il primo stupore e il primo imbarazzo, quei signori avevano cominciato a capire che con lui, benché imperatore, non era difficile intendersela. E divennero tutti ugualmente desiderosi di sentir raccontare della fortuna della ragazzina e del suo prossimo ritorno al paese nativo. Alla fine era nata una tale amicizia tra loro e l'imperatore, che questi arrivò perfino a cantar loro la canzone che aveva appreso nel bosco. Era forse una condiscendenza eccessiva nei loro riguardi, ma dal momento che si rallegravano tanto di ogni parola che diceva, non poté rifiutare loro il piacere di sentirlo anche cantare. E quando la sua voce si levò nel canto, vi fu, si può ben crederlo, un gran trambusto. Il suo auditorio non fu più limitato soltanto a quei vecchi signori, ma alle vecchie contesse e generalesse che sedevano sul divano del salottino a bere tè e mangiare dolciumi, i giovani baroni e le damigelle che danzavano nella sala da ballo, tutti quanti accorsero ad ascoltarlo. Gli si affollarono intorno, stretti in cerchio, e su di lui erano puntati tutti gli occhi, come deve essere quando uno è imperatore. Una canzone come quella, naturalmente, non l'avevano mai sentita. E appena l'ebbe cantata fino alla fine, vollero che ricominciasse. Jan si schernì per un bel pezzo, perché non si deve poi essere troppo compiacenti, ma quelli non si diedero per vinti, finché non li accontentò. E quando giunse al ritornello, si misero tutti a cantare, e al boom, boom, boom, i giovani batterono i piedi per terra, mentre le damigelle scandivano il tempo con le mani. Sì, era una canzone straordinaria. E quando la riprese, con tutta quella gente vestita a festa che cantava in coro, e tante belle giovinette che gli lanciavano occhiate amichevoli, e tanti intrepidi giovanotti che gli gridavano «bravo!» ad ogni verso, Jan fu preso dalle vertigini come se avesse danzato. Gli sembrava che qualcosa l'avesse preso tra le braccia e lo sollevasse in aria. Non perse la coscienza, sapeva benissimo di avere ancora i piedi per terra, ma al tempo stesso provava la meravigliosa sensazione di poter salire in alto, così in alto da elevarsi al di sopra di tutti gli altri. Da una parte era portato in su dalla gloria, dall'altra dalla magnificenza. Lo portavano sulle loro ali possenti e lo deponevano su un trono imperiale che si librava lontano, tra le rosse nubi della sera. C'era una sola cosa che mancava. Pensate se la grande imperatrice, la piccola Clara Gulla di Skrolica, fosse stata presente. Aveva appena formulato quel pensiero che una specie di bagliore si diffuse nel giardino. E guardando meglio, vide che proveniva da una giovinetta vestita di rosso, che era appena uscita dalla casa e stava sulla loggia. Era di alta statura e aveva folti capelli biondi. Era rivolta in modo che egli non riusciva a vederne il viso, ma non poteva essere che Clara Gulla. Allora capì perché si era sentito così felice quella sera. Era il presentimento della vicinanza di Clara Gulla. Si interruppe a metà del canto, spinse da parte chi gli intranciava il cammino e corse verso la loggia. Giunto al primo scalino, dovette fermarsi. Il cuore gli batteva con una tale violenza che quasi gli scoppiava nel petto. A poco ritrovò le forze per continuare. Saliva lentamente, un gradino alla volta. Quando finalmente arrivò alla loggia, spalancò le braccia e mormorò il suo nome. La giovinetta si voltò, ma non era Clara Gulla. Era una sconosciuta che lo guardò stupefatta. Non poté dire una parola, ma le lacrime presero a sgorgargli a fiotti. Non riusciva a trattenerle, ridiscese la scala, volse le spalle a tutta quella festa e a quell'allegria e si incamminò via per il viale. La gente lo chiamava a gran voce, volevano che ritornasse a cantare per loro, ma Ian non lo ascoltava. Più veloce che poteva, si dirigeva verso il bosco, per nascondervisi con il suo dolore. Ian e Catrin. Mai prima Ian di Skrolica aveva avuto tanto da pensare e da riflettere quanto adesso che era diventato imperatore. In primo luogo doveva stare estremamente attento, ora che era assurta una tale grandezza, a non permettere che la superbia si insinuasse nel suo animo. Doveva sempre ricordarsi che noi uomini siamo fatti tutti della stessa materia e discendiamo dalla stessa coppia di antenati, che deboli e peccatori lo siamo tutti e quindi, in fondo, nessuno ha di che vantarsi di fronte all'altro. Per tutta la vita Ian si era sentito disgustato da come gli uomini cercano sempre di mostrarsi superiore agli altri. Ora non voleva fare anche lui così. Ma si accorgeva bene che non era facile mantenere la giusta umiltà per uno che era salito tanto in alto da non potervi essere in tutto il comune un suo pari. La sua maggior preoccupazione, naturalmente, era di fare o di dire qualcosa che potesse far nascere nei vecchi amici ancora legati alla loro vita di fatiche quotidiane la sensazione di essere trascurati e dimenticati. Era quasi meglio non far loro parola di quanto gli accadeva a tutti gli inviti e a tutte le feste dell'intera contrada alle quali ormai era suo dovere partecipare. Non che potesse accusarli di invidia, tutt'altro, ma ad ogni modo non era opportuno spingerli a fare paragoni. Non poteva pretendere da persone come Borie e Ola di essere chiamato imperatore. Dei così vecchi amici potevano pure dire Ian, come avevano sempre fatto. Non avrebbero mai potuto abituarsi a comportarsi in altro modo, ma la persona a cui doveva più pensare e con la quale doveva essere più prudente era, si intende, la vecchia moglie, che se ne stava lì, seduta, nella loro casetta. Sarebbe stato un gran sollievo e anche una gioia se fosse giunta qualche notizia di un innalzamento anche per lei, ma questo non era avvenuto. Era rimasta la stessa di sempre. Ma forse non era neanche possibile altrimenti. Clara Gulla capiva certo che non c'era modo di fare di Catrin un'imperatrice. Figurarsi se si sarebbe mai messa un gioiello d'oro sui capelli per andare in chiesa. Sarebbe di sicuro rimasta a casa piuttosto che comparire là con in testa qualcos'altro del solito scialletto nero di seta. Catrin, d'altra parte, dichiarava apertamente che non voleva sentir dire che Clara Gulla era diventata imperatrice. E forse Tutto sommato, la cosa migliore era accontentarla. Ma si può ben capire che non era tanto facile per uno che ogni mattina scendeva al pontile dove tutti quelli che attendevano il vaporetto gli si facevano intorno chiamandolo in ogni momento imperatore, deporre del tutto la propria maestà non appena metteva piede sulla soglia di casa. Doveva riconoscere che gli costava molto dover portare la legna e l'acqua per Katrina, e per di più sentirsi rivolgere la parola come se fosse caduto più in basso anziché salire in alto. Se Katrina si fosse accontentata di questo, poteva anche passare. Ma il fatto è che si lamentava pure che Jan non volesse più andare al lavoro come un tempo. Quando però se ne usciva con una simile pretesa, Jan faceva proprio orecchie da mercante. Sapeva bene che l'imperatrice di Portugalia gli avrebbe mandato tanto denaro che mai più in vita sua avrebbe avuto bisogno di mettersi i vestiti da lavoro. Sarebbe stato addirittura un torto verso di lei cedere a Katrina su questo punto. Un pomeriggio alla fine di agosto, Jan sedeva sulla pietra davanti alla porta d'ingresso e fumava una sua pipetta quando vide un balenare di abiti chiari e udì giovani voci raggiungergli dal bosco. Katrina era nata nel bianco sotto le tutte le ali gamberetti secchi per una scopa, ma prima gli aveva detto che d'ora in poi doveva essere per forza lei ad andare a scavare i fossati a falla. Lui poteva anche restarsene a casa a cucinare e a ramendare, visto che era diventato troppo fine per lavorare da altri. Jan non le aveva risposto, ma quelle parole l'avevano amareggiato e fu ben contento di poter volgere i suoi pensieri altrove. Corse in fretta a prendere il berretto da imperatore e il bastone e fece giusto in tempo ad arrivare al cancello proprio quando stavano per passare le giovinette. Non era meno di 5. Le 3 signorine di Lovdala facevano parte del gruppo. Le altre dovevano essere ospiti in visita. Jan spalancò il cancello e si fece loro incontro. «Buongiorno, mie gentili damigelle», disse, e fece un così largo gesto col berretto che sfiorò quasi il suolo. Si fermarono di colpo e all'inizio apparvero un po' intimidite, ma Jan fece loro presto superare il primo imbarazzo. Allora ci furono i «Buongiorno» e i «Nostro buon imperatore». Ed era più che evidente che era una vera gioia per loro rivederlo. Quelle signorinette non erano come Katrina e l'altra gente della Skedalar. Non domandavano di meglio loro che di sentir parlare dell'imperatrice, e chiesero subito come stava e se era in procinto di tornare a casa. Domandarono anche se potevano entrare nella casetta e vedere che aspetto aveva. E questo Jan non aveva motivo di rifiutarlo, perché Katrina teneva tutto sempre così lindo e ordinato che chiunque lo desiderasse era sempre benvenuto. Quando le signorinette entrarono, rimasero piuttosto stupite che la grande imperatrice fosse cresciuta in un ambiente così piccolo. «Poteva benissimo andar bene prima, quando vi era abituata», dissero. «Ma che sarebbe avvenuto se fosse ritornata? Sarebbe rimasta ad abitare lì, presso i genitori, o sarebbe ripartita per la Portugallia?» Jan aveva già sufficientemente riflettuto alla questione e aveva capito che Clara Gulla non poteva fermarsi nelle Skedalar, avendo un intero regno da governare. «Certo, andrà così. L'imperatrice dovrà ritornare in Portugallia», disse. «Allora voi dovrete pur seguirla, no?» chiese una delle signorinette. Jan sapeva bene che avrebbe preferito che quella domanda non gli fosse posta. Dapprima non rispose, ma la giovinetta non volle darsi per vinta. «Forse non sapete ancora cosa verrà?» insistette. Ma sì, lo sapeva, ma non era sicuro di come la gente avrebbe accolto la sua decisione. Forse non sarebbe sembrato ben fatto da parte di un imperatore. «No, dovrò proprio restare a casa io», disse. «Non sta bene che me ne vada lontano da Katrina». «Ah, ma Katrina non partirebbe anche lei?» «No, proprio non si può spingere Katrina ad abbandonare la casetta, e io devo rimanere con lei. Ecco, quando uno ha promesso fedeltà nella gioia e nel dolore». «Sì, a quella promessa capisco che non si può venir meno», disse la signorina più assidua nel far domande. «Sentite voi altre? Jan non vuole abbandonare sua moglie per quanto l'alletti tutto lo splendore della Portugallia, e pensare che proprio di questo si rallegrassero tanto». Gli batterono la mano sulla spalla e assicurarono che era ben fatto da parte sua. «Era un buon segno», dissero. Non era ancora finita per il vecchio bravo Jan Andersson di Skrolica. Jan non capì esattamente che cosa intendessero, ma certo erano contente di poter continuare ad averlo nel comune. Subito dopo salutarono e se ne andarono. Erano dirette fino alla ferriera di Dyvnas per una festa. E figuratevi che erano appena uscite che entrò Katrina. Doveva essere rimasta fuori dalla porta ad aspettare, non volendo entrare finché c'erano estranei. Ma da quanto fosse là e quanto avesse udito del colloquio, nessuno potrebbe dirlo. Comunque fosse, aveva un'espressione più dolce e più buona di quella che aveva da tempo. «Sei un pazzo da legare», disse. «E mi domando cosa direbbero le altre donne se avessero un marito come te. E tuttavia, è bello che tu non voglia abbandonarmi». Ignazio Oliva ha letto L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it